Questa sera la presentazione, l'interlocuzione con lui avrebbe dovuto farla Alfonsino, animatore della casa editrice Magmata, che ha pubblicato questo libro. Non c'è perché è venuto a mancare suo padre dopo lunga e dolorosa malattia. Io voglio spendere due parole, oltre che per salutare Alfonso e la mamma, due parole su Pietro Gargano, quest'uomo che è morto, perché è una figura che io ho avuto la fortuna di conoscere nelle tante discese a Napoli per le iniziative fatte insieme ai compagni napoletani, alla Perditempo. Ero a casa loro ospite e soprattutto ho conosciuto la sua attività, finissimo intellettuale, capace di spaziare tra la rivoluzione giacobina napoletana del 1799, le culture popolari del meridione, il partigianato, la resistenza. Ultimo libro che abbiamo presentato qualche mese fa è quello che lui scrisse sulle quattro giornate di Napoli e soprattutto una gigantesca enciclopedia della canzone, della musica popolare napoletana, pubblicata da Magmata e che è l'opera di riferimento per questa illustre tradizione musicale e culturale. Però sette volumi, parlando insieme, ma perché non tirate fuori un volume di sintesi che potrà arrivare in un maggior numero di mani? Se ne ha parlato poi una di quelle cose che lasciano il posto ad altre più urgenti, e poi è subentrata la malattia e non se ne è potuto fare più di niente. Ma sulla stessa enciclopedia più di una volta ci si è trovati a ragionare: ma presentiamo un volume magari con dei gruppi punk napoletani, facciamo degli incroci, e, ecco, quindi volevo ricordare Pietro Gargano e d'intesa con lui dedicare questa serata alla sua memoria. Un uomo non solo d'altri tempi, ma attraverso altri e tanti tempi, perché appunto aveva la curiosità, la capacità e l'interesse per collaborare con l'Istituto Italiano di Studi Filosofici e però fare tutto il resto che vi ho detto in un rapporto di sostegno con le cose che faceva Alfonso, con questa iniziativa editoriale e di circolazione del libro, perché la libreria Perditempo non è solo una libreria, è un punto di incontro per molti versi simile alla Calusca di Primo Moroni. Ci passano un po' tutti, ecco, diverso dalla Calusca di Primo Moroni è che metà della sua attività si svolge in strada, come è per le cose napoletane. Per chi arriva da Milano, la cosa che forse colpisce di più è che la vita si svolge ovunque, ma non nel senso di un attraversamento della città dovuto e necessario come a Milano. No, anche a Milano si gira tanto, ma sempre perché c'è da andare per obbligo in un punto distante, attraverso però dei canali che sono prefissati. Invece a Napoli era divertente, è sempre divertente uscire in strada con Alfonsino, perché non riesce a fare 10 passi che saluti, parli, ti metti d'accordo con 10 persone, ecco. Questo per i Gargano. Invece, per quanto riguarda l'iscrizione di questa serata, che era già stata programmata, però si è deciso, si è proposto a voi, si è quindi poi deciso di iscriverla nella 3 giorni dedicata a Primo Moroni, io accenno brevissimamente a due motivi di collegamento che non sono pretestuosi. Non è perché c'era già la l'idea di fare questa 3 giorni che si è proposto di inserire questo appuntamento. Il primo motivo consiste nella sfrenata passione di Primo Moroni per il ballo. Fin da quando era ragazzo, poi in età più adulta e ancora all'interno del Cox, nei video lo si vede animare delle danze scatenate con gli allora giovanissimi frequentatori del Cox. Quindi c'è un motivo, siccome il comunicato che ha fatto arrivare Alfonsino si chiude con "dopo la lettura di queste pagine non riuscirete a tenere i piedi fermi", questo è un primo motivo di collegamento. Il secondo motivo consiste nel fatto che Primo, nella sua attività di sempre fino alla fine, ha dedicato tantissima attenzione, mosso da una insopprimibile curiosità, per le culture popolari, per gli intrecci tra culture diverse, per la contaminazione tra l'alto e il basso, per aprire delle finestre, andare a guardare cosa c'era dentro. Anche Lele, che tra poco prenderà il mio posto, raccontava del primo incontro con Primo Moroni. Lui, giovane panchettino di provincia, che passa in strada, sente la musica punk dentro e accoglie l'invito di questa figura diversa, assolutamente diversa per età ma per stile, che però ne sa tanto di punk, ha tutte le fanzine uscite in quel periodo, è capace di accogliere e chiamare dentro un ragazzino come chiamò dentro tanti ragazzini, e questo è il modo in cui Primo ha realizzato la sua presenza alla storia, dentro una tradizione politico-militante, nella trasformazione della società e in questa apertura e in questa voglia di sapere cosa accadeva realmente tra i giovani nella base sociale, quali culture venivano prodotte attraverso quali strumenti e in quali incroci espressivi e vitali. Ecco, questi sono i due motivi fondamentali per cui aveva senso presentare questo libro e poi la seconda parte della serata, più al di là delle parole, dentro i suoni, all'interno di questa 3 giorni. Lele, se vuoi venire, io poi, se ho da domandare, dire qualche cosa, mi siedo qui. Sì, vabbè, hai già detto tutto, mi sono trovato qui, insomma, anch'io per, insomma, per questo ricordo, mettiamolo così, di Primo. E l'aneddoto che dicevi prima, appunto, era il fatto che la questione del ballo, ecco, era comunque, io credo, anche inclusa nella questione, appunto, dell'aggregazione che porta, appunto, questa pratica, diciamo così, e quindi appunto, essendo che questo, l'aneddoto che dicevi prima legato al punk era anche quello, perché comunque il pogo, comunque c'è sempre stata un'attenzione, credo io, ecco, da parte sua, ma anche da parte di tanti altri compagni, così, proprio di avere, creare luoghi dove poter esercitare queste pratiche di aggregazione, eccetera. Appunto qua stasera abbiamo costui, ecco, che ci siamo conosciuti per la prima volta, ci siamo visti dal vero, è stato adesso, anche se ci conosciamo appunto artisticamente da tempo, così. E il libro non l'ho ancora letto, lo leggerò, però mi sembra interessante il fatto, insomma, che se ne parlava prima, appunto una spiegazione, diciamo, scientifica della nascita del breakbeat e dell'utilizzo che ne è stato fatto durante la storia, diciamo, di questo elemento, appunto, che è il breakbeat. E quindi questo elemento viene nel corso degli ultimi, penso, 30, sì, 40, sì, trentennio, così, l'evoluzione, appunto, che ha portato tutti, virgolette, i nuovi generi musicali, anche quelli attuali, no? Quindi questo break di batteria che è ripetuto, è costruito e swingato in milioni di modi, ecco, e questo era interessante, appunto, anche dal punto di vista antropologico, direi, anche perché poi, appunto, entra anche l'elemento poi delle tecnologie del tempo che fanno sì che affinano o sì, comunque evoluzionano, sì, completamente. Esatto, lascio la parola a lui che lo spiega meglio di me. Allora, buonasera a tutti, per me è un onore essere qua. Io mi chiamo Artisan Frankie B, sono onorato di essere al Cox, che artisticamente considero sempre una casa, perché qui ho avuto l'onore di presentare diverse creature che ho fatto. Sono un musicista, quindi ho presentato il mio primo disco quasi 26 anni fa, proprio qui. Nel corso degli anni tanti album sono stati oggetto dell'educazione e dell'invito del Cox, quindi essere qui quando si ricorda Moroni e stare con tutti voi per me è veramente importantissimo. Mi allego al ricordo di Pietro Gargano e quindi do un abbraccio ad Alfonso, che è il mio editore di Magmata, e sono felice di essere qua perché ci sono tanti amici, Toto, c'è Unet, Pippo, che per me è un punto di riferimento assoluto per, diciamo, la grande scuola che mi ha fatto essere musicista, cioè l'hip hop. Io considero Unet una delle eccellenze che abbiamo culturali, diciamo, in Europa, perché è una persona che riesce a spiegare praticamente quella che è la scienza antropologica che c'è dietro questa cultura che è così sulla bocca di tutti. E nella stessa misura invece Lele, che per me è stato un DJ molto formativo, che io ho sempre ascoltato nella mia formazione, ma che non avevo mai avuto l'onore e il piacere di incontrarlo fuori da una console. Quindi si è creata questa congiunzione, sono felice di essere qua con voi. Il mio libro si chiama Break Construction e il titolo, e come sottotitolo ha cronache sincopate di basso e batteria. Spiego cosa voglio dire. Il titolo è un ossimoro sostanzialmente, perché io parlo, proprio come diceva Lele, della costruzione attraverso il break, che invece è una frattura della ritmica. Cioè, quello che a me, fin da quando ero molto ragazzino, mi ha colpito è il fatto che il funk di James Brown avesse una parte in cui tutti gli strumenti sparivano, la voce spariva e si dava solo voce al batterista. Il batterista che non faceva un tempo dritto, ma faceva una cosa spezzata. In maniera assolutamente ignorante, quando ero molto piccolo, ho incominciato a sentire l'hip hop, e l'hip hop aveva quel tipo di batterie ripetute, quindi mi sono naturalmente, diciamo, affascinato a scoprire il motivo, e ho capito che praticamente da quel colpo di batteria, tramite quella che era la rivoluzione praticamente degli strumenti elettronici, che permettevano anche a chi non aveva avuto una scolarizzazione musicale, quindi non è che era andato al conservatorio, ma appunto in maniera molto punk creava semplicemente con le emozioni, con quello che poteva essere un'idea, rubando anche nel senso più lato del termine queste parti dai dischi funk, magari per esempio ripetendole, accelerandole e creando un qualcosa di nuovo. Naturalmente, dietro questa ricerca ho scoperto che esiste praticamente un trentennio che parte appunto dagli anni 70, arriva fino al 2000, in cui proprio grazie a questa frattura della ritmica, il break o breakbeat, si sono costruiti dei generi musicali che non solo sono diventati delle vere e proprie istituzioni nel mondo musicale elettronico, ma anche nel mondo fatturabile, cioè sono dei generi musicali che hanno prodotto tanto, sono diventate proprio quasi delle aziende a sé stanti. Ma la cosa ancora più interessante è che hanno prodotto dal 2000 in poi tutta la musica che conosciamo oggi, sia quella di ultranicchia che quella assolutamente mainstream. Quindi sostanzialmente il libro, che è diviso in tre capitoli, parla naturalmente dell'approccio dell'hip hop, quindi il grande padre pioniere Kulerk, che incominciò a ripetere con due giradischi questa parte praticamente dei dischi di James Brown attraverso una tecnica che chiamava la giostra, merry-go-round, e faceva sempre sentire questa stessa parte. In quel modo permetteva ad esempio ai ballerini di provare queste contorsioni praticamente sul pavimento, da lì nasce quindi la breakdance, a quelli che sarebbero diventati rapper di provare praticamente delle strofe in rima, ma soprattutto a tutti i musicisti, sia scolarizzati o meno, di avere quel senso di ciclicità, cioè legato al famoso loop, il loop che è alla base della musica elettronica. Musica elettronica che poi può essere sia ultraritmica, come per esempio negli anni 90, dove questa trasformazione musicale arriva al suo corpus più importante, perché per esempio in Inghilterra vengono creati, grazie ad una situazione socioculturale importantissima, ad esempio la nascita dei rave party, no? Quindi questa grande aggregazione di qualunque tipo di personaggi, di qualunque tipo di storia, che potevano stare insieme ed erano accomunati proprio da questa esperienza di ascoltare della musica diversa. In quel caso la dinamicità di questa musica era incredibile, e quindi nascono tre generi fondamentali: hardcore UK per quello che riguarda la musica elettronica, diventato poi jungle e poi diventato drum and bass. Allo stesso tempo, però, sempre con i breakbeat e quindi con una contemporaneità che secondo me è quasi magica, in America per esempio nascevano altri tipi di culture sempre legate all'utilizzo di questa ritmica, come tipo quella di fare lo scratch, cioè andare avanti e indietro con una mano su un disco producendo della timbrica, però utilizzando i breakbeat, quindi questa batteria spezzata, come una base continua. E proprio da quella tecnica si è creato un nuovo genere musicale che si chiama turntablism, cioè l'arte di suonare un giradischi al pari di qualsiasi altro strumento. Parallelamente ancora, a Sheffield, un'etichetta indipendente che si chiama Warp Record utilizzava sempre questa parte fratturata della musica, tutto al contrario, cioè togliendogli quella dinamicità prorompente e facendola diventare una sorta di ingrediente, in una sorta praticamente di sandwich sonoro, ok? E quindi nasceva la grande musica sperimentale di artisti come Aphex Twin, come gli Autechre. Quindi tutto questo percorso trentennale è raccontato in questo libro qua. E poi, giusto per essere precisi, la mia non vuole essere assolutamente una volontà di educazione sulla musica. Io racconto semplicemente quello che è il mio lavoro ormai da 30 anni, cioè io sono un musicista e un DJ professionista e parlo solamente di dischi che ho comprato con i miei soldi, che ho suonato alle mie serate, e di artisti che io ho conosciuto. Quindi non è che io racconto il genere musicale come se fossi un giornalista o un critico, io parlo della mia esperienza perché vivo il mio DJing come se fossi un soldato, come se fossi un artista di arti marziali, ecco. Fatto salvo che chi vuole dire può farlo e chi è stato citato meriterebbe di prendere parola, non è un obbligo, per carità, è un invito, scherzo. E, la cosa che mi colpisce di più di quello che hai detto, al di là dei riferimenti molto puntuali, precisi a gruppi, nomi, situazioni storiche e il substrato che si può immaginare, tu vai accennato però lo si può immaginare, è lo spessore o comunque la possibilità di un approccio filosofico a quanto hai raccontato, seppur brevemente. Perché in ballo ci sono la questione del montaggio, la questione del ritmo, lo stornamento, il detournement, di un certo elemento culturale per farne qualcos'altro. Il campo di un e tutto questo dentro un'idea di ridefinizione del tempo e del corpo nello spazio. Cioè ce ne sarebbe per ragionare alla Benjamin, per intendere come lui fece sulla questione del montaggio, del cinema. Qualcuno lo fa? Perché c'è stato un riferimento al giornalismo musicale e quindi la domanda è anche, la rivolgo anche a te. C'è qualcuno che ha già riflettuto su questo livello profondo dell'eco? E se hai voglia di... Sì, prima della domanda specifica... Tutto parte da lontanissimo e parte da grandi teorici che hanno permesso l'arrivo di quella che è la cultura elettronica della musica. Se cerchiamo di essere un minimo più precisi, possiamo partire da Pierre Schaeffer, che inventò la musica concreta, che era praticamente la prima corrente fatta con un montaggio di diversi elementi, cioè cose registrate, tipo per esempio la fontana che sgorga, oppure per esempio rumori naturali. Due anni dopo arriva per esempio John Cage, che crea la tape music, quindi utilizzando per esempio delle bobine, dei registratori a nastro, incomincia ad andare ulteriormente avanti in questa idea di mettere questo multistrato. E per arrivare a tempi più moderni, la cosa più bella è che poi, per esempio, questo gruppo inglese fantastico che si chiamano Orb inventano questa cosa che si chiama overdubbing, che è praticamente un panino sonoro, come quando voi vedete quegli hamburger incredibili che hanno mille strati di bontà in mezzo. Loro lo facevano con delle fonti sonore, con delle fonti audio. Il discorso che poi diventa quasi cross-mediale, nel vero senso della parola, ha un sacco di riferimenti cinematografici. Per esempio, uno dei casi più importanti è proprio quello della Warp Records. Cioè, Warp Records assume questo incredibile regista che si chiamava Chris Cunningham, che era assolutamente affascinato dalla biomeccanica, per esempio, pensiamo ad H.R. Giger, quindi, e allo stesso tempo a quello che accadeva in Giappone con l'animazione degli anime, quindi i robot, tutta quella tecnologia espansa, le metteva insieme e creava dei cortometraggi incredibili proprio sulla musica di Aphex Twin, che era fatta perfettamente con questo multistrato, fino poi ad arrivare a capolavori, per esempio Bjork, All Is Full of Love è un'installazione permanente al MoMA di New York, e il regista è lo stesso, ma potrei farvi tantissimi altri esempi anche con gruppi molto mainstream. Ad esempio i Massive Attack sono stati i primi a scegliere dei registi che oggi vincono Cannes, vincono Venezia, proprio perché hanno portato nella musica questo discorso cross mediale di unione. E poi, giusto per concludere, è assolutamente un approccio come far parte di un ordine. Cioè, non è che uno fa la musica così perché la musica è una cosa soggettiva, cioè la musica è un bel fatto serio dove uno ci entra in maniera potente, non in maniera distratta, secondo me. Tu vuoi dire qualcosa? Dai, vieni qui un momento. Tra l'altro posso. Vabbè. Vi presento, tra l'altro, e siamo prossimi alla settimana mondiale, tra l'altro, del Record Store Day. Il Record Store Day, per qualcuno che non lo sapesse, è la settimana dei vinili e dei negozi di dischi che vendono ancora vinile, che fortunatamente ne sono sempre di più. E lui è Danilo Durante, il presidente di Record Store Day Italia, quindi per me è un grande onore averlo qui con noi. Devo dire che l'aspetto, diciamo, olistico di cui parlavi, in realtà in Italia non è molto sentito nell'ambito della musica altra, perché chiaramente le radio hanno un background molto mainstream. Le radio che non hanno un background molto mainstream non fanno massa critica. I giornali hanno delle dinamiche, anche i giornali di musica hanno delle dinamiche ormai molto basate sui numeri, quindi fino alla fine degli anni 90, primo decennio dei 2000, la musica elettronica, grazie anche per esempio ai Massive Attack, grazie a Moby, grazie a gruppi, cioè grazie a nomi che ormai sono diventati mainstream, un po' è passata, ha avuto supporto da riviste, radio. Molti artisti di musica elettronica hanno fatto concerti negli stadi. Adesso siamo un po' in fase calante, quindi adesso funziona l'artista solo se è riconoscibile tramite dei numeri. Per fortuna non tutti sono così, ma in Italia, ahimè, c'è un po' questa cosa. A differenza, per esempio, in paesi come gli Stati Uniti, dove Africa Bambaataa, che è passato a miglior vita ieri, nel 2013-14 ha lasciato la sua collezione di dischi alla Cornell University a New York a scopo divulgativo. Cioè, le istituzioni lì un po' supportano. Io per esempio, che mi occupo di questa giornata che celebra il negozio di dischi dal 2013, dalla prima edizione italiana, un piccolo sogno da appassionato sarebbe: perché non c'è in Italia una struttura dove, come ci sono, come c'è la biblioteca Sormani, perché non c'è una audioteca dove ognuno lascia le proprie collezioni di dischi da far ascoltare? Dovrebbe essere anche un tema, no, ministeriale, per esempio, come magari c'è per i libri, c'è per l'arte, c'è per l'architettura. Quindi in generale l'aspetto musicale è sempre un po' tenuto come intrattenimento, non come, come ambito culturale su cui anche formare un'educazione di ascolto. Quindi l'educazione nostra adolescenti, se eravamo curiosi, passava tramite dei dischi, se no in radio. Mio padre ascoltava la musica italiana, quindi io, più di ascoltare Rino Gaetano, già Rino Gaetano era già qualcosa di strano, non ascoltavo Piero Ciampi, cioè non ascoltavo, no? Quindi la risposta alla domanda è: in realtà ci sono dei giornalisti molto appassionati di musica elettronica, ma anche loro fanno fatica, perché comunque devono rispondere a delle logiche che sono un po', diciamo, viziate dal mainstream. Sintesi. Comunque non preoccuparti, tra un po' non ci saranno più neanche i libri, quindi si va a pari. Sì, sì, per non fare differenze. Questo che tentiamo ancora di farli. No, però... Sì, però quello che diceva lui è vero, cioè che non c'è una scienza che è la biblioteconomia, una riflessione sia teorica che pratica sulla conservazione del libro. Non c'è qualche cosa di analogo per le culture musicali. Poi è vero che ad esempio anche in Sormani per un certo periodo c'è stata... oltre che l'emeroteca, la discoteca, la nastroteca, però ad esempio è quella parte che è andata in cavalleria quando è cambiata la tecnologia di base. Non c'è stato un investimento per star dietro alla, per dire, tutto il patrimonio di videocassette della Sormani non è stato digitalizzato, no? E poi è vero quello che dici, ma giustamente lui lamentava questo approccio ancora sì, pigro, tardo crociano, per cui è soltanto la cultura scritta di livello che merita di essere conservata, diversamente che in altri paesi. Ma lo stesso discorso vale anche per la documentazione storica. Se si paragona due paesi pure vicini come la Francia e l'Italia per quanto riguarda la conservazione dei documenti di storia di qualsiasi tipo, locale, politica, uno ha voglia di trasferirsi in Francia, perché se ha delle carte che vuole conservare, in Italia non ci sarà nessuno che gli dà una mano, in Francia troverà molto facilmente, perché c'è la spiegazione sarebbe lunga e complessa, però c'è di sicuro questa attenzione. Però appunto si può stare tranquilli, perché anche sul libro si sta andando indietro, quindi tra un po' si sarà alla pari, al ribasso. Ecco. Volevo fare un'ultima domanda per parte mia. Tu giustamente mettevi in chiaro come il giornalismo musicale che sta decadendo nella possibilità di essere un'attività professionale retribuita come l'insieme del giornalismo, si trova quindi costretto a barcamenarsi tra quello che gli piacerebbe fare e quello che deve fare per cercare di tirare su quei quattro soldi. E ci sono altri canali, sia per cioè, se si potesse dire in due parole come funziona la circolazione della musica e dell'informazione su questa musica, per dire nel caso della scrittura, della letteratura, l'editoria non funziona, però si è trovata la maniera di fare i blog letterari, no? Che sono dei circuiti gratuiti che permettono l'espressione sia del lettore che dello scrittore in una circolarità molto ampia e forte, tanto da dover essere recepita anche da circuiti di critica letteraria più formali. Ecco, come funziona per questa vostra forma di comunicazione e di espressione? Partendo dal presupposto che anche incontrarci in poche persone è sempre la cosa migliore, perché ci si annusa, ci si respira, ci si sente, naturalmente anche quella che può essere definita nicchia di qualunque entità sia, si modernizza e per esempio cerca in tutto il balam creato dai social di usarli in maniera intelligente da quel punto di vista, e quindi cercando di togliere la parte egotica praticamente che esiste nell'uso dei social forum e cercare di farne semplicemente un vettore per la comunicazione, ecco, necessaria al tuo fine, che può essere parliamo di un'attività, parliamo di un libro, parliamo di un film. Sono nati tanti progetti come per esempio film indipendenti o addirittura graphic novel, dischi indipendenti. Per esempio nella musica non vorrei fare pubblicità, però al di là di tutto ciò che è il do it yourself in cui si vende la musica, oggi c'è un sito che ti permette, anche senza essere associato a niente o a nessuno, di poter vendere praticamente le tue composizioni ed essere l'unica persona che qualunque cifra praticamente sia stata valutata diventa tua. Questo sito si chiama Bandcamp, per esempio, che ha una serie di tipi di associazionismo, e quindi creare delle piccole comunità che hanno, secondo me, solo un modo per espandersi e riuscire a trasmettere il livello di credibilità. Ecco, cercare di essere credibili, e la credibilità lo so che può sembrare, diciamo, molto banale, ma te la dà solo la purezza e l'emozione che metti nel fare le cose. Io ho iniziato a screcciare, a fare il DJ quando avevo 12 anni, ne faccio 49 a fine mese e mi emoziono ancora come il giorno zero, quindi fin quando esiste questa cosa, sì, ce la faremo, assolutamente. Va bene, c'è Lele, vuoi dire o domandare qualcos'altro? Grazie, per me è veramente importante, detto da te, io poi sempre quel bambino comprava i suoi dischi che conservo gelosamente a casa, e per me è veramente, ripeto, non è perché, cioè, vedere lui che tra l'altro è citato nel libro ovviamente, vedendo, è un premio. No, io comunque, a parte, ti ringrazio, però cioè, quello che ho fatto, che abbiamo fatto, vorrei specificare che lo abbiamo fatto, no? Sì. Perché c'era un terreno possibile per poterlo fare, e insomma è uno di questi terreni, è proprio uno di questi. Io la prima volta che sono venuto al Cox, e per me era come suonare, per esempio, io amo molto il Giappone, cosa mia personale, no? Cioè la prima volta che sono venuto a suonare al Cox è stato 26 anni fa, perché io facevo il primo disco Jungle Drum and Bass, che è stato veramente contrattualizzato in Italia. Cioè noi siamo stati il primo gruppo, ci chiamavamo Nevrotype, e firmammo il contratto con la Cinenova, che era l'etichetta del maestro Ennio Morricone, e c'erano ancora, diciamo, le care vecchie lire, e prendemmo anche un sacco di soldi. Noi eravamo dei bambini praticamente, e grazie ad UNET noi facemmo la prima data praticamente proprio al Cox, ed è un qualcosa che io ricordo con un'emozione incredibile. Poi Pippo, ripeto, è knowledge allo stato puro. Io insegno in questa università a Napoli e insegno proprio quello che c'è scritto nel libro, e i libri che scrive UNET sono, ecco, i testi che io consiglio praticamente per una vita migliore. Quindi sono veramente felice di parlare di questa cosa con Toto, con tutti quanti voi qua. Grazie veramente di cuore, grazie mille. Io da qua lo dico, io non voglio dire niente, perché davvero da quando ho fatto le prime presentazioni quel Conchetta, Frankie è sempre stato presente, ed è sempre stato uno di voi, un sostegno, anche perché in diverse occasioni che qua su questo palco io parlavo e lui era ai piatti dietro di me, per cui figuriamoci. Ma proprio per questo oggi volevo solo stare zitto e ascoltare, per comunque segno di rispetto nei suoi riguardi. L'ha fatto per un sacco di tempo quando ero io a presentare, e adesso ero io che stavo qua ad ascoltare. Anch'io non ho fatto in tempo, perché me l'ha mandato in PDF il libro, ma io a video non riesco a leggere, per cui non ho fatto in tempo a leggerlo. Quello che di cui parla, soprattutto il fatto di questa rivoluzione avendo isolato il break, è qualcosa su cui anch'io ho dedicato parecchio tempo, parecchi studi, parecchie parole. Ovviamente lui, dal punto di vista artistico, in quanto DJ e produttore, ha la sua visione, l'ha raccontato, personale, di artista, di come l'ha interpretato e di come poi l'ha manipolato per creare nuova musica. Per cui davvero non è, anzi è proprio per il rispetto che ho nei suoi riguardi che oggi non volevo chiedere niente, anzi soltanto ascoltare quello che aveva da dire e a breve leggere quello che ha scritto. Grazie fratello, grazie mille a tutti voi ragazzi, grazie Cox. Viva il Cox sempre, io mi sento fieramente parte di questo posto. Grazie Baba, grazie veramente a tutti voi, siete bellissimi, e spero di darvi un po' fastidio con la mia musica tra un po'. Grazie, ciao, grazie.